Professoressa Lucini, quindi noi siamo pronti con carta e penna per prendere nota. Cosa bisogna fare? Questa che siamo questo, veniamo al buono, insomma. Al buono. Teniamo presente che l'attività fisica, parlando di colesterolo, è quella che tra l'altro aumenta il colesterolo HDL, quello cosiddetto buono. Teniamo conto che però ce ne vuole tanta di attività fisica per fare questo, però ce ne può volere anche di meno per fare cose altrettanto buone, sia per quanto riguarda gli aspetti metabolici che quelli articolari. Quindi che cosa fare? Al di là di quello che teoricamente sanno tutti, le famose, ma tu devi fare almeno 30 minuti al giorno di camminata a passo veloce. La cosa importante è come faccio. Allora, la prima regola è questa. Fare qualcosa in più rispetto a quello che noi facciamo è già un'ottima cosa. Mi piace questo. Quello che io dico ai pazienti che mi dicono, ma io non ce la farò mai a diventare un atleta, non ce la farò mai andare a correre, non ce la farò mai andare a camminare tutti i giorni. Tu incominci a fare di più di quello che fai. Quindi, prima cosa, quantifico la mia situazione di base e mi pongo degli obiettivi realistici e significativi. Magari se me li pongo con il mio medico è anche meglio. Faccio qualcosa in più, con l'obiettivo di arrivare ai nostri 30 minuti di camminata. Poi ci sono tecniche anche abbastanza divertenti. L'interval training, cammino per 3 o 4 minuti, poi mi faccio un minuto o due di jogging. Poi siccome sono stanco non mi fermo, riprendo a camminare. E ogni giorno aumento di più. Piuttosto che anche se sono in casa, ho un attimo di tempo, cerco di camminare in casa. Sembra una banalità, però funziona tantissimo. Sono in ufficio, devo andare 3 o 4 volte al piano di sopra, lo faccio a piedi, ma sempre incrementando quello che io devo fare. Poi, una volta che ho tolto anche la ruggine dal mio cervello, mi lasci dire anche questa cosa, che mi impedisce la volontà di incominciare a camminare e di muovermi, allora, magari con l'aiuto di una prescrizione fatta bene, è sicuramente possibile riuscire a incominciare a diventare fisicamente più attivi, con benefici per l'articolazione, i vasi e tante altre cose.